Tutti pronti? Col vino? Ok, intanto che Claudio serve le altre due persone. Ci avete già messo il naso dentro nel vino, nel bicchiere? Avete capito perché lo servo per ultimo? Qui il giochino è frutta e fiori, perché se prima abbiamo detto e ci siamo limitati e non vi ho rotto le balle ulteriormente perché non era mia intenzione tediarvi con i frutti che non sentite da anni, ma al limone, alla pera William e nulla di più. Qui invece andiamo un attimo più a fondo, nel senso che la frutta esotica, che qualcuno mi dirà, o la frutta matura non mi basterà, e faccio chiudere le porte, non uscite finché non dite tre frutti importanti, non dite due fiori importanti. E quindi violetta, cominciamo con la frutta, così facciamo meno il commento è stato kiwi cazzola in fondo, per cui secondo me non è stato apprezzato il commento sul kiwi. Nessuno di voi ha mangiato recentemente un frutto esotico che si chiama lici? Rimettete il naso nel bicchiere. Ci siete? Coloro che conoscono il lici, gli si è aperto un mondo? È vero, lici. Sembra che non c'è dentro il lici bianco con il nocciolo, però è questo. Vedete che è soltanto una questione di allenamento e di, legare una certa sensazione olfattiva. Non è che questo nella botte dove ha fatto il vino ci ha messo i lici, Cioè, i Gewürztraminer, tendenzialmente, che si vengano fatti nella zona più importante per i Gewürztraminer, che è la Germania, o la seconda zona più importante per i Gewürztraminer, che è l'Alsazia, o in Alto Adige, dove danno comunque dei risultati più che apprezzabili, questo è un Alto Atesino, il lici c'è. E quindi l'altro giochino, al mercato, comprate qualche lici, comprate una bottiglia di Gewürztraminer e fatelo il giochino, perché è davvero divertente. Sul fiore, poi torniamo se volete sul melone bianco, sul melone invernale, queste cose qua. Ma sul fiore, che cosa mi dite? Violetta, no. Bravissima. Riesci a mettermi l'aggettivo? La rosa di che colore? Bravissima, vedi? Anche lì, non dico che dovete regalare un mazzo di rose canine alla vostra moglie, compagna, barra compagno, però riabituate le narici a cercare queste sensazioni olfattive, perché poi in un bicchiere le ritrovate tutte. Gli esempi di stasera sono esempi ovviamente limitati perché abbiamo assaggiato tre vini, ma ogni vino ha uno spettro olfattivo enorme, per cui è davvero un giochino andare a cercare le varie cose. A parte il lici e la rosa canina, cosa vince la signora? cosa trovate? Cosa ci trovate? In questo vino giallo. Vi piace questo vino giallo? Rispetto agli altri due? Più buono rispetto agli altri due. Secondo voi, dal punto di vista calorico, non di calorie, ma di caldo, di alcol, come è messo rispetto agli altri due? Cioè, quanto alcol sentite? Secondo voi quanta gradazione c'è in questo vino? Sparate una cosa, dai. 12, 13, 13 e mezzo, 14, 15 gradi e mezzo, vi va bene? Il fatto che ci sia scritto 15 dal mio retro. Sì, perché è la tendenza dei Gewürztraminer Alto Tesini recente è quella di fare grosse selezioni in vigna. Cosa vuol dire selezione in vigna? Diradare tantissimo, tenere pochissime pochissimi grappoli per pianta, parliamo di 3-4 nella, quando ne tengono tanti, ovviamente c'è una concentrazione zuccherina molto maggiore e quindi conseguentemente sale il grado alcolico. Di questi vini ne potete bere quanto ne volete, dal mio punto di vista. Il secondo bicchiere comincia, è molto buono l'impatto olfattivo, è molto buono l'impatto in bocca, il secondo bicchiere di un vino con un residuo zuccherino, sentite che ha anche un po' di dolce. Questa è un'altra tendenza di questi vini. Con cosa abbinate un vino del genere? Tutti col formaggio piccante? Canederli. Tutte le sere vi fate i canederli voi a casa. Carne bianca, ok. Nessuno di voi mangia etnico? Nessuno di voi utilizza il curry in polvere? Quando mangiate il curry, il pollo, i peperoni, panna, sugo col curry, tanto curry, l'unico vino che regge il piccante, che regge la speziatura profonda del curry o del pepe o di queste cose qui, è il Gewürztraminer, perché ha un impatto molto forte dal punto di vista della spezia, dell'olfatto, e ha anche un alcol che regge la situazione, altrimenti, quindi sì, la carne, la fettina di tacchino mi va bene, abbondiamo col curry, perché altrimenti la fettina di tacchino non... Sì, però ribadisco, qualsiasi piatto preparato senza spezia, con un vino del genere scompare, perché è molto potente, ok? Nessun altro vuole dire cosa ci sente, non la violetta, ribadisco, perché la violetta non c'è. La spezia, nessuno sente spezie dentro il bicchiere? Non è sbagliatissimo, eh? Non è corretto, ma anche la cannella ci può stare. Però, ribadisco, sui vini bianchi troverete molto più facilmente spezie dolci. La cannella... Non lo so perché non rientra nei miei canoni di spezia dolcissima, nel senso che... Che cosa ci trovate ancora? Noce moscata mi si dice a destra. Adesso facciamo una gara, dai. Vaniglia e noce moscata, tutti d'accordo? Tutti sentite la vaniglia? Vaniglia, per me sì. Nessuno sente quindi il piccantino? Poi, sì, zenzero, ribadito, correttissimo. Quindi, a maggior ragione, con un piatto speziato in un certo modo, che cosa vi viene in mente se vi dico zenzero dal punto di vista del cibo? Che cosa mangiate con lo zenzero? Perché non è anche con lo zenzero, come con i canederli di prima, non è che ce li facciamo tutti i giorni i canederli, io saranno 5 anni che non mangio canederli, non è che non bevo Gewürztraminer perché non mangio canederli. E quindi bisogna cercare qualcosa comunque da abbinare in una certa maniera, giusto? Che cosa può essere con lo zenzero? Nessuno di voi ha mangiato recentemente sushi? Ok, col sushi non ci mangiate lo zenzero? Qui l'abbinamento preferito col sushi è il tè verde, mi si dice, per cui... La prossima volta facciamo una selezione all'ingresso. No, questo è invece un vino che con il sushi, e quindi il pesce crudo, con una speziatura forte, ci può stare tranquillamente. E ripeto, è un vino però non facile da abbinare, perché non è da abbinare a un aperitivo, perché se cominciate l'aperitivo con un vino di 15 gradi, poi bevete a tavola un whisky. Se lo abbinate a un primo particolarmente elegante e delicato, scompare. Se lo abbinate a un formaggio che non ha una speziatura profonda, il formaggio lo sentite relativamente. Quindi un'altra cosa che io abbinerei tranquillamente a un vino del genere è un formaggio erborinato ma fresco, quindi un gorgonzola, perché no? E bevuto questo vino da solo, al secondo bicchiere non ne potete più, e quindi vi consiglio un abbinamento un po' ad hoc, diciamo così, perché altrimenti rischiate di pensare male del Gewürztraminer ingiustificatamente, nel senso che è un grande vino che fatto in questa maniera capisco possa recare qualche problemi di stanchezza alla lunga. Bevetene poco. Domande quelle che volete. Dipende qual è il problema, non sono medico, sono sommelier, però... Allora, l'unica differenza nella vinificazione fra il bianco e il rosso è la presenza, durante la vinificazione del vino rosso, delle bucce. Il vino bianco non ha le bucce. Per questa ragione, come ho detto prima, nel vino bianco può darsi che ci sia una presenza di anidride solforosa, solfiti, più alta. Per quanto ne so io e per quanto provo io quotidianamente sul mio corpo, non c'è differenza fra un buon bicchiere di vino bianco e un buon bicchiere di vino rosso. È un vecchio detto: vino rosso fa buon sangue. Ribadisco, ci sono dei miti da sfatare sul vino bianco. È visto spesso come colui che causa mal di testa la mattina dopo. Ribadisco che il medico dovrebbe consigliare un buon bicchiere di vino bianco o un buon bicchiere di vino rosso. Tendenzialmente il vino, quando è cattivo, bianco o rosso, non fa differenza. Altre domande? La domanda è se è più facile camuffare. Camuffare in che senso? Sì, perché tendenzialmente una delle, come possiamo definirle, scorrettezze, restiamo in una parola, in un eufemismo, dai. Una delle scorrettezze del mondo del vino, per quanto riguarda il commercio del mondo del vino, è che non vi è obbligo da parte dei produttori di segnalare in retro di etichetta la quantità di solfiti messi nella bottiglia. Perché come si fa a camuffare il vino? Cioè, se vogliamo camuffare un vino, se vogliamo renderlo più bevibile, fondamentalmente lo vogliamo conservare. Vogliamo che quel vino, invece che durare 6 mesi, come potrebbe essere per la, ma bianco-rosso cambia poco in questo discorso, per sua natura, vogliamo farlo durare 24 mesi. Quindi cosa facciamo? Addizioniamo. Ribadisco che nel bianco sicuramente c'è più solforosa che non nel rosso, per una questione di deperimento del colore, null'altro. È quindi normale che chi lavora male in cantina e abusa di alcuni strumenti a propria disposizione, se esagera con l'anidride solforosa, può causare tranquillamente il mal di testa. Ma la premessa è fondamentale. Si può camuffare più facilmente il vino bianco rispetto al vino rosso, ma se noi abbiamo una possibilità di capire, di sapere in etichetta come viene prodotto il vino, questo è un discorso legislativo un po' così, campato per aria, però davvero, se voi ci fate caso, in etichetta del vino, per noi consumatori le informazioni sono bassissime. Addirittura nelle DOC non c'è obbligo di segnalare l'annata. Cioè, questa è la legislazione italiana sul vino, per cui uno che è dentro a un consorzio DOC non ha l'obbligo di segnalare l'annata di produzione del vino. Quando alcuni produttori italiani si paragonano ai grandi produttori francesi, dovrebbero fare un bagno di umiltà, la Francia rispetto all'Italia è indietro in certi sport, ma nel mondo del vino è nettamente più avanti.